Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 21 settembre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti, sempre sul nostro programma che fa da ponte tra carcere e città e che si chiama per l'appunto Liberi Dentro, Eduradio e TV. Sempre in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Io sono sempre Caterina Bombarda, alla conduzione con Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Del nostro programma che parte sempre con notizie tra rassegna stampa e notizie internazionali, anche di cultura generale e approfondimento. Oggi prendiamo una notizia che invece riguarda la cronaca nera in particolare. Chiara Ugolini, la ragazza uccisa nel Veronese, il vicino di casa fermato nella notte, confessa ai carabinieri. Lo leggo dalla stampa a cura di Monica Serra. Era uscito dal carcere solo lo scorso giugno, Emanuele Impellizzeri, il 38enne di origine catanese, che è stato arrestato la notte scorsa, la notte di qualche settimana fa, dalla Polstrada lungo l'Autostrada del Sole, nei pressi di Firenze in Pruneta, con l'accusa di aver ucciso Chiara Ugolini, 27 anni, nell'appartamento che questa ragazza condivideva col suo fidanzato a Calmasino, a Bardolino, in provincia di Verona. Emanuele aveva tentato la fuga in sella alla sua moto, una moto di grossa cilindrata, e ora è stato accusato di omicidio volontario aggravato. Che cosa sappiamo di Chiara? Di Chiara sappiamo che aveva 27 anni, viene descritta da tutti come una ragazza solare, come tutte le ragazze della sua età, amante dei viaggi, giocava a pallavolo, aveva finito l'università a Padova in scienze politiche e dopo aveva scelto di lavorare presso un negozio di abbigliamento della famiglia del fidanzato. Al momento del delitto era in casa da sola, erano più o meno le 2 del pomeriggio. E proprio il suo mancato rientro a lavoro è stata il campanello d'allarme per far capire a tutti che forse era successo qualcosa. Pare che qualche giorno prima della sua triste morte, Chiara si fosse intromessa in una lite violentissima scoppiata proprio tra Impellizzeri e la sua compagna. E durante questa scenata fuori di casa, lui aveva giurato di fargliela pagare. Senti, e che cosa sappiamo esattamente di lui, di Emanuele Impellizzeri? Ma lui, oltre al fatto che appunto 38enne di origini catanesi, sappiamo che era già stato condannato in realtà per reati poco gravi, rapina, reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, tutti reati che possono prevedere benissimo la misura alternativa alla pena, cioè è previsto dal nostro codice penale. E lui viveva nell'abitazione a piano terra della palazzina Trepiani, dove viveva anche Chiara. Al momento dell'arresto ha fatto parziali ammissioni sull'accaduto, ma poi si è chiuso in un silenzio di tomba circa le ragioni del suo gesto. Lui, anche padre di famiglia con un bimbo piccolo, al momento poi dell'accaduto ha prelevato 200 euro, si è messo in sella la sua moto e ha tentato la fuga, una fuga che poi è finita con l'arresto. Senti, è una storia veramente brutta che fa rabbrividire proprio in questo momento in cui si parla tanto di riforme. Ma che cosa dice la ministra Cartabia sull'argomento? Come sapete, i genitori di Chiara hanno detto, dopo una reazione chiaramente più che concepibile, dopo che è stata uccisa, che se l'assassino fosse stato in galera, tutto questo non sarebbe accaduto. E la Cartabia ha risposto: di fronte a questo non abbiamo ancora delle alternative che possano garantire le vittime, soprattutto se sono donne. L'essere umano, ha aggiunto, è in grado di fare grandi cose, ma anche di fare male. Qui è importante saper realizzare un percorso di pena che risponda effettivamente alla specificità delle persone, pensando a percorsi più proficui, più umani, anche perché il carcere, se non offre inserimento, porta alla recidiva, e su questo la Cartabia ha perfettamente ragione, anche perché la recidiva nel nostro paese supera il 70%. E su questo vorrei anche concludere che ci aiuta anche il sapere scientifico a darci, se non altro, una spiegazione di quello che è intorno a noi, del mondo che abbiamo intorno. A questo proposito c'è uno studio che potete trovare anche su internet, una ricerca del 2011 intitolata Il lato criminale delle persone normali, a cura del dottor Massimo D'Angelo, che ha un approccio interessante al tema della criminalità, siccome lui non cerca di isolarla a singoli casi, a singole menti umane, come si faceva in epoca positivista, ecco, lui parla della criminalità come un problema globale che è sempre esistito sotto tutti i regimi politici, in tutti i continenti, in qualsiasi sistema sociale. E anche il dottor Sigmund Freud, il massimo esponente della psicoterapia, sulla personalità aveva affermato: l'uomo ha istinti aggressivi e passioni primitive che portano allo stupro, all'incesto, all'omicidio, sono tenuti a freno questi istinti in modo imperfetto dall'istituzione e dai sensi di colpa. Quindi, tradotto, questo significa che nella personalità di ciascuna persona c'è un lato oscuro, nascosto e normalmente represso, che si è liberato da... libera uscita a atti criminali e crudeli di qualsiasi tipo. Le motivazioni sono varie, di ogni genere, che spingono a gesti assurdi, ma per quanto tali riflettono una piccola realtà per eccellenza, ovvero che ciascuno di noi è sì potenziale vittima e di certo anche possibile assassino. Questo ricordiamocelo sempre prima di giudicare le persone, ecco, nonostante questi fatti che ci circondano. E ora una pausa musicale con i Coldplay, The Scientist, e ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Dopo la pausa musicale abbiamo ascoltato i Coldplay, siamo con te Antonella e apriamo un'altra finestra sul mondo, questa volta dalla Nigeria. Sì, e come sapete ormai il martedì lo dedichiamo a una città, però oggi questa città, che è una città molto particolare, la voglio raccontare attraverso la penna e gli occhi di un giornalista che si chiama Marco Trovato. E lui dice che l'abbraccio di Lagos toglie il respiro, non è solo per la sua collocazione geografica, nell'angolo formato dal Golfo di Guinea, se la chiamano la scella dell'Africa. Quindi c'è questa sua narrazione di quando arriva all'aeroporto a questo caldo infinito, di questo caldo umido che a Lagos imperversa. E poi racconta che fino a non molto tempo fa chi approdava a Lagos era terrorizzato dall'anarchia che regnava nel suo scalo internazionale, truffatori, borseggiatori e doganieri che imponevano tasse inesistenti per far passare valigie e che poi venivano spesso saccheggiate da banditi travestiti da facchini o da tassisti. E oggi i cambiavalute si avvicinano con rotoli di biglietti di denaro lerci. Ti serviranno subito, ti dicono, perché in realtà le ruberie proseguono anche fuori a ben altri livelli. Però la cosa più sconcertante è forse la viabilità, un traffico che forse è ineguagliabile. A complicare il tutto c'è il fatto che il lago sorge su una laguna e si estende quindi tra terraferma e alcune isole poste verso l'oceano. Per muoversi, infatti, bisogna infilarsi su lunghi ponti, alcuni dei quali sono lunghi anche 12-13 chilometri, e che nell'ora di punta diventano veramente degli imbuti. Si va a passo d'uomo, le mani inchiodate al clacson, quindi immaginate il frastuono tra minibus gialli, i mototaxi, a Pekar, che cercano di andare sul marciapiede per evitare, insomma, il traffico. Quindi una situazione molto caotica. E poi nel frattempo si infilano anche gli ambulanti, con ogni genere di mercanzie, dai materassi, creme sbiancanti, batterie, quadri, mappamondi, banane, di tutto di più. È come trovarsi in un centro commerciale senza scaffali all'aria aperta, in realtà. Da come ne parli, mi pare una città densamente abitata. Infatti esiste una stima di quante persone vivono in questa città nigeriana? In realtà, se proprio lo vogliamo dire, non lo sa nessuno. Si stima che a Lagos vivano circa 22 milioni di persone. Però le persone arrivano nei vasti slum che assediano i quartieri residenziali alla spicciolata, non si sa, non è difficilissimo contarli. Ogni settimana si sa che 10.000 nuovi arrivi minimo ci sono. Nel 2050 la popolazione infatti sarà raddoppiata. Contadini Yoruba e Ibo lasciano i loro villaggi inseguendo il sogno di vivere meglio. Famiglie Hausa e Fulani fuggono da Boko Haram, che semina il terrore nel nord. Nessuno però si preoccupa di gestire questo flusso e non c'è una pianificazione, quindi questa città cresce a dismisura senza nessun piano regolatore. E la Nigeria, tra l'altro, è il primo esportatore africano di petrolio e il boom del greggio negli anni 70 ha dato il via alle colate di cemento degli speculatori. Infatti, 2/3 della popolazione di Lagos vive in baraccopoli sotto la minaccia quotidiana degli sgomberi. Però i lagosiani provano, come spesso in queste popolazioni del sud, che sono sempre in situazioni quasi borderline, provano per la loro città un sentimento controverso, che oscilla perennemente dall'amore incondizionato all'imbarazzo fino all'odio viscerale. E a irritare poi c'è la pessima reputazione di questa città, corruzione, sporcizia, insicurezza, caos e la criminalità che riempie le pagine di cronaca nera. Però Lagos riserva anche delle sorprese di segno opposto ed emana il suo fascino. Infatti la vita culturale notturna non ha nulla da invidiare alle città occidentali. Ogni sera ci sono concerti rap, high life, locali affollati di giovani, mostre d'arte, fotografiche, gallerie, poeti e scrittori che si incontrano al locale New Africa Shrine, lo storico locale fondato da Fela Kuti, che era il padre dell'Afrobeat, un personaggio anche questo molto particolare. E quindi non c'è miglior palcoscenico in Africa dove mettersi in luce. E poi c'è anche un'osservazione sulla ricerca dell'eleganza, che è un tratto distintivo dei lagosiani, di qualsiasi ceto sociale. Anche nei sobborghi più miserabili, la domenica i fedeli cristiani ostentano abiti e cappelli degni di un red carpet. Amici nigeriani, raccontateci la vostra città e scrivendo anche in inglese se volete su redazioneliberidentro@gmail.com. E proprio per continuare sull'argomento ascoltiamo Fela Kuti con una canzone del 1972 che si chiama Shakara. Rieccovi, bentornati su Liberi Dentro e Du Radio TV. Siamo oggi con un'ospite nuova, lei è l'insegnante di scienze di Scuola Superiore von Neumann del carcere di Rebibbia, Elena Lugaro. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno e grazie. per analizzare con te un po' il tuo lavoro sicuramente, e spostarci dalla regione Emilia-Romagna alla regione Lazio chiaramente per quello che riguarda la scuola, e poi anche analizzare l'aspetto di una notizia a firma di Patrizio Gonnella su comuneinfo.net qualche settimana fa, dove si parla di una sconcertante motivazione, diciamo, con cui il Tribunale di Sorveglianza bolognese avrebbe negato una misura esterna di maggiore libertà a un detenuto. Perché avrebbe studiato troppo e quindi potrebbe usare le sue lauree per rafforzare la propria dimensione criminale. Naturalmente non possiamo entrare dirimente nella notizia, non abbiamo tutte le competenze giuridiche per farlo, però con un'esperta, un insegnante come te, possiamo analizzare effettivamente che cos'è lo studio in carcere. Però appunto dicevo, tu sei insegnante a Rebibbia, al carcere di Rebibbia, un carcere che è stato costruito negli anni 70, che ha più di 1000 detenuti, quindi una realtà molto grande. E parlaci del tuo lavoro come insegnante, quando hai iniziato? Io ho iniziato come insegnante in carcere nel 2007, quindi ormai parecchi anni fa. E, ho insegnato, ho deciso di chiedere il trasferimento in carcere un po' al buio, non conoscevo in realtà la realtà carceraria. Il mio inizio è stato un desiderio di capire di più, insomma, un desiderio di capire una realtà che non conoscevo, e ho trovato colleghi accoglienti che hanno saputo introdurmi in una realtà complessa, indubbiamente, ma molto interessante e molto, molto positiva, insomma, ecco, questa è la mia sensazione, una realtà coinvolgente per i docenti, per gli studenti, intanto un rapporto con adulti, che quindi al di là della differenza di ruolo, insomma, è effettivamente un rapporto coinvolgente e dal punto di vista umano ricchissimo. Quello che ho trovato sono stati studenti desiderosi di questa libertà che riuscivano a vivere all'interno delle classi. Un vero spazio di libertà, insomma, quello che mi è sembrata la scuola in carcere è stato questo. E non solo perché c'è un rapporto con l'esterno che sicuramente è interessante, ma proprio perché c'è un clima diverso, insomma, rispetto a quello che c'è in altri ambienti carcerari, che conosco solo parzialmente, perché poi noi come insegnanti abbiamo i nostri spazi, non entriamo in determinate dinamiche, ma questo è, secondo me e secondo molti di noi docenti, uno strumento di libertà, insomma, il fatto di non entrare in determinate dinamiche che ci sono all'interno del carcere e di rapporto delle persone ristrette con altri operatori del carcere. Elena, quando è che secondo te lo studio può essere allora strumentalizzato, come un po' riporta questa notizia che ho lanciato all'inizio, e quando invece è una risorsa per acquisire questi strumenti di libertà anche se si è in una condizione di privazione di libertà personale? L'articolo mi ha colpito perché effettivamente capisco che il problema possa esserci. A me non è capitato personalmente, nella mia esperienza non ci sono stati casi di strumentalizzazione, ci sono stati casi in cui alcuni studenti hanno deciso di partecipare alle attività scolastiche semplicemente perché era un modo per fare qualcosa, non necessariamente perché erano interessati al titolo di studio, ma semplicemente perché le offerte sono purtroppo pochissime, le offerte di attività sono pochissime, e quindi il fatto di poter uscire dalla cella e fare qualcosa che inizialmente veniva fatto semplicemente così, con curiosità, eccetera, ma che poi in molti casi invece è diventato un impegno, insomma, ci sono anche casi in cui questo impegno, quando ci si rende conto che è un impegno, si torna indietro. Mentre è capitato diverse volte che studenti che abbiamo avuto e che hanno fatto il percorso completo, noi abbiamo 5 anni di scuola, hanno effettivamente avuto una possibilità in più sia di costruire, di pensare al proprio futuro in modo diverso, di costruire il proprio futuro A Rebibbia io insegno in una scuola superiore, ma ci sono anche corsi universitari. Molte delle persone che frequentano i corsi universitari hanno fatto il percorso scolastico. Si sono messi nuovamente in gioco. Ecco, questo, la funzione di mettersi nuovamente in gioco e di pensare al proprio futuro, mi sembra che sia una funzione che la scuola riesca a svolgere. Mi è capitato di sentire il discorso di Mauro Palma, in cui diceva, e più di una volta ha sottolineato, il fatto che noi dobbiamo pensare ai detenuti, dobbiamo pensare al dopo e al fuori. Ecco, mi sembra che la scuola svolga questo compito, possa aiutare, diciamo, a svolgere questo compito, aiutare a pensare al dopo e al fuori, perché quello che si costruisce è qualcosa che non in tutti i casi sicuramente, ma insomma sappiamo bene che anche pochi casi di cambiamento sono importanti, insomma, e possono smuovere qualcosa. Quindi credo che mi piace citare una frase che uno studente ha scritto in un tema alla collega d'italiano. E gli ha detto: professoressa, è come se la scuola avesse messo gli occhiali alla lingua, che insomma è una cosa molto, un'immagine insomma non molto carina, secondo me, molto significativa, ecco, perché effettivamente per molti che magari hanno un trascorso scolastico burrascoso e poco vissuto molto male, effettivamente invece la frequenza dei nostri corsi porta ad un cambiamento, a una fiducia maggiore, a una nuova visione, insomma, del futuro. Ecco, questo sicuramente mi sembra che la scuola lo faccia, con tutte le difficoltà legate alla scarsità di mezzi, alla nostra necessità di inventare e di creare in ogni momento situazioni nuove, perché poi quello che abbiamo a disposizione è molto poco, insomma, però anche da parte nostra c'è la necessità proprio di mettersi in gioco in modo diverso e di rivedere il proprio ruolo di insegnanti, che è impegnativo, senz'altro è impegnativo, ma è anche molto coinvolgente, molto bello. Elena, lanciamo una canzone, come al solito a metà della nostra trasmissione, e noi ci rivediamo tra pochissimo. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro di Radio TV. La nostra ospite di oggi è un'insegnante del carcere di Rebibbia, la scuola superiore von Neumann. E abbiamo Elena Lugaro e stiamo parlando della scuola in carcere a partire da una notizia a firma di Patrizio Gonnella sull'interdizione, diciamo, di una misura di maggiore libertà a un detenuto perché avrebbe studiato troppo. Quindi stiamo parlando della scuola, delle sue opportunità. Elena ci ha illustrato benissimo quali sono le opportunità della scuola all'interno del carcere, però quest'anno in particolare, dallo scorso anno, un anno e mezzo, abbiamo visto come il binomio scuola-carcere purtroppo sia saltato in maniera rovinosa a causa del Covid-19. Come l'avete vissuta voi? Com'è andata? Per noi è stato pesantissimo. Noi abbiamo dovuto interrompere le lezioni in presenza a metà novembre e non le abbiamo riprese per tutto il corso dell'anno in alcune sedi di Rebibbia. In altre si è potuta fare una parziale didattica a distanza, ma per la maggior parte delle nostre classi Non è stato possibile fare didattica a distanza, non è stato possibile entrare, salvo per i pochi studenti che dovevano fare l'esame di Stato, che però nell'ultimo mese hanno fatto qualche lezione e poi hanno svolto l'esame a distanza sempre. Quello che abbiamo fatto noi è stato, cioè l'unica cosa che ci è stata permessa è stata una cosiddetta didattica sincrona, che consisteva nel distribuire fotocopie agli studenti, dispense agli studenti che poi ricevevano queste fotocopie e dovevano rispondere sempre tramite carta scritta, insomma la vecchia carta utilissima, senz'altro, senza la carta non avremmo avuto neanche questa possibilità di dialogo con loro, però insomma la didattica asincrona è stata definita da qualcuno un ossimoro, perché insomma una didattica senza un ritorno è stato veramente pesantissimo. Quello che ci auguriamo per quest'anno è quello di una ripresa veloce. Adesso domani abbiamo il primo collegio dei docenti, un nuovo dirigente, e vorremmo anche combattere perché si rientri in modo sicuro, senz'altro, perché poi c'è stata anche la preoccupazione della mancanza di sicurezza, la richiesta da parte della scuola di attuare un protocollo di sicurezza d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, in modo da poter essere tutti nelle condizioni migliori per svolgere il nostro ruolo e per garantire un diritto, insomma, ecco, questo ci ha veramente colpito, il fatto che non sia stato possibile fare scuola, ecco. Elena, ti ringrazio, ci hai dato uno spaccato diverso ancora della scuola. Spero di riaverti qui su Eduradio, magari con buone notizie quando sarete ripartiti. E un grande speriamo bocca proprio, grazie a voi davvero. Ancora una canzone destino. E ci rivediamo tra poco per i saluti finali. Grazie Elena, a presto. Grazie tantissimo. Hey, perché bisogna combattere, cambio questa realtà, voglio riprendermi tutto, bisogna combattere, solo la verità, non ho bisogno di niente. Credevo di essere in torto e mi sono assolto. Non puoi perdere il treno quando aspetti in aeroporto. Cercavo slancio, mi sono perso a maggio. Vi basta per convincervi che sono un personaggio. Personalmente ho perso tempo dietro gente che in un attimo è svanita perché l'attimo fu gente. Tieni a mente che combatto e non sto zitto. So bene che avrò perso il giorno che mi do per vinto. Ti prego Houston, lanciami su Marte. Qua mettono da parte l'arte per fare spazio alle cravate. E le ingiustizie sfilano, i giusti si defilano, ma i cuori non si arrendono e gli stagni si accendono, sorrisi che sorprendono anche nello smarrimento. Il successo è una risata in faccia ad ogni fallimento. Guardare il mare e prendersi coraggio, i sogni sono navi enormi in cerca di equipaggio. Perché bisogna combattere, cambio questa realtà, voglio riprendermi tutto. E anche oggi arriviamo al momento dei saluti. Dopo aver ascoltato Elena Lugaro, questa insegnante del carcere di Re Bibbia, abbiamo ascoltato uno spaccato di realtà diversa, sempre anche carceraria. Ci salutiamo, ci ridiamo appuntamento con la rubrica a seguire, se ci ascoltate su Lepida TV tra pochissimo alle 13.30 oppure alle 17 su Teletricolore, i dialoghi sulla cittadinanza e come sempre alle 6.30 su Radio Città Fujiko al mattino presto. A domani e un saluto da me, Antonella Cortese ed Enea Flacco. Ciao a tutti e scriveteci redazione Liberi Dentro @gmail.com per qualsiasi domanda e anche proposta vogliate farci. A prestissimo. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.